così con più, magari con altra gente, con altre mentalità. Nelle tue solite giornate non trovi più dell'entusiasmo, la scuola di lavoro tu non ce la fai più. Pensi di stare bene, ma la noia affonda dentro di te. Non sai più che fare, tutto questo perché siamo angeli, rinchiusi chiave d'ore contro vento, sempre alla ricerca di una nuova libertà. Siamo angeli, fermatevi e sta più serante, sempre alla ricerca di una nuova libertà, di una nuova libertà, di una nuova libertà. Mille cose hai da fare, non riesci neanche a respirare, aspetti un concerto per divertirti un po', incontrare nuova gente, passare il tempo a far bordello, restare con gli amici e non pensarci più. Siamo angeli, rinchiusi chiave nel controvento, sempre alla ricerca di una nuova libertà. Siamo angeli, fermatevi e sta più sperante, sempre alla ricerca di una nuova libertà, di una nuova libertà, di una nuova libertà. Buon carnevale, mi sono fatto un po' manino la gamba, ma pazienza. Pallino! Un saluto, un applauso a Pallino che è venuto a trovarci. Ah. Ci siamo? Quella! Ops! Bruno ha fatto il danno! Bruno, infila il jack che vedi che funziona! Boi! C'è una persona là in fondo? Che mi ha detto dedicami una canzone, ma non lo faccio adesso. Ci siamo?